China. Do you ever think this world is yours, eh? And you, Cuba, hey, yeah. Do you ever think this world is yours? Canada, do you ever think this world is yours, eh? And you, Britain, hey, yeah. Do you ever think this world is yours? If you're thinking so, my friends, better change your mind. Buonasera a tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Questo è Briccobaldo che vi parla. State ascoltando la diretta di mercoledì 10 giugno, sono le 19.02. Vi ricordo com'è che potete fare per interagire con noi. Ci potete scrivere delle mail a postawombat@insiberia.net, potete altrimenti scrivere sul pad che trovate sulla bacheca di Radio Wombat, sulla home del blog wombat.blogs.org, andando al pad.resap.net/p/diretta wombat. Da lì potete interagire direttamente con me. Siamo qua oggi, abbiamo due ospiti che dovrebbero essere all'ascolto. Si tratta di Maria Fiano da Venezia. Buonasera. Buonasera, buonasera, eccomi qui. E abbiamo inoltre Roberto Budini Gattai, urbanista di Firenze. Ciao Roberto. Ciao, buonasera. Quello che cercheremo di fare quest'oggi è di mettere un po' a confronto quello che sta succedendo tra due città che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, hanno vissuto prevalentemente di turismo e che naturalmente si sono trovati con la bocca all'asciutto. Vi ricordo, ci potete ascoltare dal blog, come dicevo prima, wombat.blogs.org. I più fortunati che stanno nell'area nord-nord-ovest di Firenze, nella piana, possono ascoltarci sulla frequenza 1359 delle onde mediocri. Io manderò un pezzo, 3 minuti, poi partiamo. E vai. Ben Harper. Never say goodbye to the sea, and I'll never la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Energy Wombat! Di nuovo regia Bricobaldo alla voce, come ho anticipato abbiamo due ospiti, si tratta di Roberto Budini Gattai e Maria Fiano. Si inizia con Roberto. Ri, buonasera. Buonasera Bricobaldo. Buonasera, Roberto è urbanista, lo conosciamo, lo conoscete anche probabilmente, l'avete probabilmente visto in televisione qualche giorno fa su Report in un servizio del programma di Rai 3 che ha portato alla luce diversi problemi che noi conoscevamo già, di fatto avevamo già ampiamente anche discusso e che però non erano ancora evidentemente arrivate alla ribalta nazionale. Fatto sta che è successo questo lunedì e ha suscitato anche un grande scandalo all'interno dell'amministrazione comunale. Ma la storia che vogliamo raccontare inizia un po' prima, inizia direi tanti anni fa, però diciamo che noi andremo un po' a analizzare quello che è successo in particolare dall'inizio della quarantena ad oggi, visto che l'amministrazione fiorentina, appena è iniziato il lockdown, appena i turisti hanno smesso di arrivare e di solcare le strade e le piazze fiorentine, la preoccupazione si è alzata notevolmente e non hanno tardato ad arrivare le dichiarazioni da parte principalmente del sindaco su la necessità di un nuovo rilancio della città, la necessità di una nuova strada, fino portando, no, alla ribalta su tutti i quotidiani questa necessità di un bazooka urbanistico per la città in estrema difficoltà. Bazooka urbanistico al quale, diciamo dichiarazioni alle quali proprio Budini Gattai ha risposto attraverso un articolo comparso il 14 aprile sul quotidiano online La Repubblica Firenze, che portava all'attenzione la necessità di un anche in questa grande bazooka anche dell'opinione e dell'esperienza degli urbanisti e delle urbaniste. Non si è conclusa lì, naturalmente il Comune di Firenze se n'è uscito, era mi sembra il 27 di maggio, comunque fine del mese scorso, con il nuovo piano per la città di Firenze che si chiama Rinasce Firenze. Io spero che Budini Gattai abbia avuto modo di leggerlo e magari ci può anche dire, dare un commento, dire due parole su cosa ne pensa di questo. Bene, due parole. E quindi comincio così dalla premessa di questo documento, che è quanto mai piena di cose, di buoni propositi e nello stesso tempo vuota. Parole opposte. Perché vuota? Perché si dicono le cose che si dicono ormai sempre. Cioè il sindaco ripete che Firenze diventerà una smart city, una città intelligente, che tutto sarà coordinato, funzionale e soprattutto poi verde, insiste sul verde, sulla sostenibilità. Parole. Quando si passa poi alle proposte, si fa un elenco di azioni da promuovere. A me, insomma, a parte che colpiscono certe genericità, le famiglie, i bambini, il verde pubblico di prossimità, eccetera, mi colpisce proposte e azioni sono sul piano urbanistico, proprio quegli elementi che abbiamo sempre criticato. Nella lettera io scrivevo che non c'erano competenze urbanistiche che voleva mettere in campo, perché le competenze sociologiche, ora non se ne abbiano a male gli esperti di altre materie, Non sono così cogenti qualche volta sulla città rispetto agli interessi che si muovono, reali, gli interessi speculativi. Firenze è stata presa di mira, non dai turisti in generale, ma dai finanziamenti internazionali in cerca di allocazione. I finanzieri che hanno un surplus di denaro da investire e si è scoperto che i centri storici sono dei luoghi come le miniere una volta da cui si possono estrarre soldi. Dunque, Firenze è una cava di denaro più che altro e tutto questo si riflette sugli assetti urbanistici e questo però non era contemplato dal sindaco. Quindi il mio richiamo alla necessità di affrontare le questioni urbane principali in generale, non è stata assolutamente accolta da questo documento a cui ti sei riferito. Anzi, in un punto, proposte azioni, dice una cosa che mi ha fatto sobbalzare: completare l'eliminazione dei vuoti cittadini, dando una soluzione definitiva agli ultimi complessi immobiliari in trasformazione, quale ad esempio l'area ex officine e grandi riparazioni. Bastano 2 righe e mezzo per dire che siamo completamente fuori strada. Cioè, le officine grandi riparazioni è un'area strategica che deve essere vuota. La città oggi si fa attraverso i vuoti, lo studio di tutto ciò che può mettere in relazione, che non è il pieno, appunto. Invece no, insomma, questo è un errore madornale, ci possiamo ritornare. Io non so se come introduzione può bastare questo, Briccobaldo, che dici? Sì, intanto anch'io devo essere sincero, ho dato un po' la tua stessa lettura al documento perché è molto contraddittorio, un sacco di retorica e fra l'altro anche in primis, diciamo, una delle cose che più balza all'occhio e che fra l'altro è stata portata all'attenzione non solo da Radio Wombat, per un'altra città, ma anche dall'associazione Progetto Firenze più e più volte. Si parla di partecipazione della popolazione quando, perché effettivamente è stato lanciato un appello per raccogliere tutte le idee della cittadinanza, però poi leggendo questo documento si va a vedere che intanto, come dicevi, le questioni sono sempre le stesse e quindi non c'è niente di nuovo, ma poi se vai in fondo, scorrendo fino alle ultime righe, si va a ringraziare mica i cittadini e le cittadine, si va a ringraziare la giunta comunale, i tecnici fra i quali, che hanno lavorato al progetto, fra i quali il rettore Dei, quindi non si fa assolutamente menzione di quello che è uscito dalle bocche o dalle tastiere di chi la città le abita. Quindi in questo intanto ci sarebbe da un attimo da rivedere la narrazione e forse ci sarebbe da invertire totalmente la rotta. Fra l'altro, per un'altra città ha sottoscritto un appello lanciato dall'Associazione Progetto Firenze per una nuova Firenze popolare, per una nuova partecipazione dal basso. Quanto è importante questo, Roberto? Senti, nella conclusione di quella breve lettera che è stata pubblicata online, su Repubblica Online, io dicevo che il nuovo rinascimento fiorentino è una parola esornativa nella bocca del sindaco, se non segue un fatto radicalmente nuovo, e questo è l'apertura di un'assemblea popolare generale in cui permanente e deliberante o deliberativa, se vogliamo, democrazia deliberativa, perché emerge da 20 anni di amministrazione e ancora più fortemente dal tempo della giunta Domenici, che non si ascolta più nessuna voce popolare. I partiti sono scomparsi, a fatica qualche formazione democratica si sta formando, si sta rinascendo, ma assolutamente priva di ascolto. Dunque, i movimenti hanno fatto elaborazioni, questo lo dico in premessa della lettera, abbiamo scritto capitoli, libri, proposte, e niente di questo, cioè, non ci ignorano completamente. Dunque, il Rinascimento nasce da una partecipazione reale, non finta, non quella che propone lui attraverso le proposte, mandatemele online, le proposte, le cestinano. Sono stato 3 volte a queste riunioni partecipative finte. C'è una finzione colossale. Insomma, va detto, finalmente, dopo tutto questo ritiro di 3 mesi, di oscuramento di qualsiasi attività, contatto, eccetera, bisogna dirla la verità. Gli Extinction Rebellion hanno proposto 3 punti. Il primo è dire la verità sullo stato delle cose. Quando si parla di ambiente, qua Firenze sembra una città verde. Qui si va avanti con degli inganni paurosi, perché ha fatto le linee tranviarie che sono fatte nel modo peggiore che si potesse fare, secondo il mio punto di vista. Certo, l'ho già detto 1000 volte, le tranvie sono dei treni messi in città con quei pali disgraziati, dei mezzi ingombranti, assolutamente non agili, che sono costretti, insomma, a occupare strade che non avrebbero avuto bisogno di questo modo. E questo è uno dei diversi capitoli che contestiamo a questa amministrazione. Sì, fra l'altro poi va reso anche merito per un'altra città che non solo porta contestazioni, ma porta anche alternative. Mi vorrei un attimo soffermare proprio sulle parole che Roberto ha citato, e cioè rinascere, rinascimento fiorentino. Mi poi, senti? Ti sento, sì. E volevo invece riporle a Maria, che è da Venezia. Forse non le suonano nuove questo rinascimento, questa rinascita della città, vero Maria? Sì, ascoltare Roberto fa pensare sempre che ci sia una certa relazione tra queste due città, Venezia e Firenze, spesso associate nella iper e over turistificazione, ma anche nelle scelte scellerate delle attuali amministrazioni, ma insomma, che poi vengono e hanno una storia lontana. E a Firenze si parla di rinascimento, a Venezia si parla di rinascita, e la giunta lo fa in questo momento, ovviamente indicando i grandi eventi e la possibilità quindi di attrarre di nuovo numero di gente, di visitatori e di turisti, per, diciamo così, riscattare la città da questi mesi, diciamo così, di lockdown e quindi di misure di contenimento, eccetera. Per cui l'anteprima anticipazione l'abbiamo avuta lo scorso 5 maggio, quindi in pieno ancora lockdown, con un concerto, no? Con un concerto di Zucchero, che è amico del sindaco Brugnaro, del sindaco dell'attuale giunta, e che ha, diciamo così, privatizzato di fatto la piazza San Marco per un concerto spot per la canzone del musicista, e da lì, diciamo così, è cominciato questo slogan della rinascita e della necessità di rinascita della città. Voi avete citato un documento prodotto dalla giunta fiorentina, anche da noi è stato, sempre con questi toni molto, no? pompati, è stato pubblicato sul sito del Comune, siamo alla fine di aprile, mi pare il 28 aprile, un documento del sindaco e della giunta dal nome altisonante Rimbalzi Italia, in cui si parla ovviamente delle proposte per rilanciare la città, e il primo capitolo è dedicato esclusivamente alle attività turistiche, dalla richiesta del comune allo stato di liquidità per poter rilanciare, appunto, e far rimbalzare la città di Venezia. Quindi l'ottica è sempre quella del turismo. Devo dire che però, a differenza di Firenze, non abbiamo questi tentativi di coinvolgimento, anche se fittizi, della popolazione, o questi tentativi di far apparire, diciamo, in modo diverso la città. Qui la prima crisi è stata quella del turismo, ovviamente, messo veramente davanti agli occhi di tutti la fragilità di questa monocultura, cioè che cosa poi comporta avere una città che si appoggia esclusivamente su un unico settore economico, che è quello turistico, perché è venuta a crollare ad effetto domino tutta la filiera, per cui si hanno chiuso ovviamente gli alberghi, i ristoranti, i negozi di souvenir, che sono, diciamo, così l'immaginario più facile per qualsiasi visitatore, qualsiasi persona. Ecco che invece poi ne ha risentito l'intera filiera, fino anche al sistema trasporti. Questo ovviamente indica una cattiva rappresentazione, cattiva narrazione evidentemente da parte della giunta, ma anche probabilmente una cattiva, diciamo così, gestione dei trasporti, perché ovviamente la mancanza di turisti ha fatto, diciamo così, giustificare un forte taglio del trasporto dei pendolari, causando non poche polemiche e non poche anche difficoltà da parte delle persone che in questo periodo abitavano e lavoravano a Venezia. Diciamo che quello che ha messo poi davanti agli occhi di tutti non è tanto dal punto di vista, insomma, di chi poi lavora nelle associazioni e nei comitati proprio sulla questione della residenzialità, della Venezia del diritto alla città, eccetera. Il fatto che non ci sono mancati solo i turisti, sono mancati i residenti. La città di Venezia vive una continua fase di spopolamento, un vero e forte esodo che non è dovuto solo a cause, diciamo così, naturali, no? Per invecchiamento della popolazione, per ovviamente che caratterizza soprattutto, diciamo così, le città storiche e in particolare i paesi dell'Occidente, ma diciamo così, queste cause naturali sono affiancate da flussi migratori locali che portano ovviamente le persone ad allontanarsi dalla città antica, che perde all'incirca poco meno di 1.000 abitanti ogni anno, quindi con una decrescita negli ultimi 10 anni dell'11-12% della popolazione residente, quindi con un continuo allontanamento. E se si vanno a misurare, diciamo così, a vedere dove poi queste persone vanno nelle vicinanze, cioè nei territori del comune poco distanti, diciamo, dalla Venezia Pesce, ecco per capirci, no? Dalla città antica, dalla città insulare. E questo evidentemente è dovuto soprattutto ad una questione legata alla casa, al costo del mercato immobiliare. Alcuni studi, però siamo a studi di qualche anno fa, di un annetto e mezzo fa, dicono che addirittura la differenza dei prezzi si aggirerebbe intorno al 60%, per cui evidentemente uno dei motivi di allontanamento, di esodo della popolazione veneziana è quello della casa. Ecco, in tutto questo, diciamo, in tutto questo che parte per noi anche un po' prima dell'epidemia, parte con l'acqua grande straordinaria del mese di novembre, ecco, in tutto questo periodo non abbiamo mai sentito parlare di proposte attive, concrete per il ripopolamento, ad esempio, per riportare poi i residenti, gli abitanti in questa città. Ecco, fra l'altro, no, a sentirti parlare si trovano veramente tantissime analogie con Firenze. Non per ultima, parlavi dei grandi eventi, grandi concerti. Nel rapporto che stavamo citando prima, Rinasce Firenze, c'è una delle cose che viene elencata, è proprio quella del cercare di portare i grandi eventi, soprattutto sportivi, e loro in particolare citano e si riferiscono alle Olimpiadi 2032, che ci girano intorno già da qualche anno e stanno cercando di portarle in Toscana, Emilia, insomma, un po' a Firenze, un po' a Bologna. Fra l'altro, la questione dei residenti è pressoché molto simile, perché anche Firenze, le ultime ricerche svolte dalla Sapienza, l'Università della Sapienza, dicono che ci sono meno di 10.000 persone residenti in centro. Il comune magicamente se ne è reso conto solo quando è andato a consegnare le mascherine. Così come è veramente cascato dal pero. Io, se avete ancora un po' di pazienza, manderei una canzone, un pezzo musicale, poi ci ritroviamo fra poco, va bene? Benissimo. con cold water, doccia fredda per noi abitanti delle città turistiche. Torniamo in diretta, la canzone non è finita, ma abbiamo ospiti e le cose di cui parlare sono tante. Si diceva grandi eventi, ma andiamo ad un altro dei temi salienti. Perché? Perché, come si diceva prima, non vengono citate, nonostante abbiano un impatto enorme sulla vita delle città e delle cittadine e dei cittadini, non vengono mai citate le grandi opere. Roberto, la rivolgo a te questa domanda in primis, visto che il gruppo urbanistico per un'altra città le studia a fondo, non solo non vengono citate, ma allo stesso tempo nelle dichiarazioni pubbliche sì che vengono citate, anzi anche il sindaco Nardella negli ultimi giorni ha più volte dichiarato l'estrema necessità del nuovo aeroporto, e non solo la necessità dell'aeroporto, ma la necessità anche di regole speciali, di una sorta di pieni poteri da parte delle amministrazioni locali per poter concludere la costruzione o iniziare la costruzione di quelle che sono le grandi opere a Firenze. Naturalmente, per quanto riguarda l'area fiorentina allargata, si può dire della città metropolitana, parliamo dell'aeroporto che lo sappiamo, della stazione, del sottoattraversamento dell'alta velocità e direi anche dello stadio a questo punto, anche se probabilmente ha una storia leggermente diversa e anche lì andrebbe analizzata più a fondo. Che cosa comporterebbe la costruzione di queste opere e anche i pieni poteri alle amministrazioni per dare il via ai lavori? Vedi, Riccobaldo, la cosa è questa. Il ritiro obbligato, questa vita a strada che abbiamo dovuto fare per 2 mesi, ha fatto pensare che forse si poteva immaginare un ripensamento anche nella mente degli amministratori, che la cosa non è avvenuta e sta girando al peggio. E si vede a livello nazionale, ma si è visto subito qui a Firenze con questa autoinvestitura del sindaco a commissario speciale per le grandi opere. Dico, esistono delle norme, delle leggi, delle procedure sia per decidere le grandi opere, che non sono mai state rispettate perché si devono discutere pubblicamente e obbligatoria partecipazione a grandi opere. Ci sono i procedimenti di approvazione, di valutazione di impatto ambientale che sono stati spesso ingannevoli o traditi. E dunque, insomma, un dibattito che coinvolge gran parte dei cittadini che vogliono occuparsene. Questo non è mai avvenuto. E questo significa un autoritarismo, una politica che ha bisogno di autoritarismo, ha bisogno di dittatori per fare le cose. Si prendono degli esempi completamente sbagliati, come il ponte sul Polcevra di Genova, che non ha niente a che fare con la decisione delle grandi opere. Allora, questa ripresa accanita, vedi, te hai accennato alla conclusione del documento Nardella, ci sono tutti esponenti della Confindustria o dell'Associazione Industriale Fiorentina, insomma, eminenti personalità anche del mondo più, diciamo, colto, più intelligente di quella parte, ma sono solo loro, sono quelli che decidono. Le grandi opere a chi servono? La domanda che mi è venuta spontanea quando è ritornata fuori questa faccenda dell'aeroporto, del sottoattraversamento: a chi servono queste opere? Certamente non ai territori e a chi li abita, servono per altre operazioni. Insomma, io sono moltissimi anni che mi sono occupato, sono andato appena eletto la prima volta il sindaco Nardella, siamo andati, eravamo 6 professori universitari, 2 ingegneri e 2 ferrovieri. E ferrovieri, insomma, di attivisti che si occupavano tanto delle questioni che riguardavano il sottoattraversamento. E il sindaco ci ha detto: beh, insomma, quest'opera è cominciata, tanto vale finirla. capisci? Un'opera che insomma era cominciata, si potevano risparmiare 800 milioni che sono già stati spesi per non arrivare mai alla fine. Il sottoattraversamento non si può fare, come non si può fare l'aeroporto. Ci sono 140 osservazioni sull'aeroporto. Come si fa a rispondere a 140 osservazioni in maniera positiva? È stato bocciato 2 volte l'aeroporto, dal TAR prima e dal Consiglio di Stato. Ha dato ragione ai comitati, ai movimenti contro la nuova pista e l'aeroporto. Questi insistono, vogliono rifare un'altra valutazione di impatto ambientale. Allora, di fronte a questo, io penso che insomma, occorre veramente alzare la voce, bisogna unirsi, più voci, più comitati possibile, per dire veramente basta, questo è troppo, insomma, non ce la potete gabellare un'altra volta, ricominciare da lì. Le grandi opere sono assolutamente inutili. Sono un'operazione finanziaria volta a dare insomma, benefici, finanze, non producono lavoro. Pensare al cantiere dei Macelli per il sottoattraversamento, la stazione Foster, ci sono 60 operai, ne potremmo impiegare 10 volte tanto se si facessero le fermate, se si facesse la linea metropolitana, se nel sedime ferroviario. Insomma, sono tutte proposte che abbiamo fatto. Insomma, è veramente scoraggiante. Però succede che 3 minuti di trasmissione sul report hanno scatenato il finimondo. Insomma, ci stanno telefonando da molte parti per dire: siamo d'accordo con voi, dobbiamo unirci, dobbiamo farci sentire. Addirittura anche persone di un certo rilievo come Paolo Maddalena, insomma, eminente giurista. Ecco, beh, mi fermo qui per ora. Sì, allora poi quello che dicevi sulle grandi opere sono inutili. Sicuramente la perseveranza degli amministratori nel continuare su questa strada ci fa capire che al di là di quello che dicono, la questione turistica è comunque fondamentale, rimane comunque centrale nelle città. Probabilmente, non so se quello che si può immaginare è un cambiamento del tipo di turismo, visto anche che comunque già nell'ultimo mandato la giunta Nardella si era già resa conto che questo overtourism stava un po' spostando l'opinione pubblica, non dalla sua parte, bensì contro un'amministrazione che ha stimolato così tanto l'arrivo di masse di turisti e turiste. Per quanto invece riguarda Venezia, i meccanismi più o meno sono simili. Le grandi opere, no, non lo sono, perché naturalmente insomma, una TAV non ci arriva. Un aeroporto sì. Che cosa sta succedendo su quel fronte a Venezia, Maria? Allora, anche qui le connessioni sono molteplici, iniziando ovviamente dalla mancanza di dialogo con la cittadinanza e con la popolazione che spesso accompagna questi progetti. Mi viene in mente immediatamente quanto sta succedendo in questi giorni con questa proposta di costruzione di una bretella di collegamento proprio per l'aeroporto, con ovviamente un impatto molto forte sul territorio, ma anche sulla stessa mobilità del territorio. E anche qui, diciamo, i cittadini della municipalità, stiamo parlando ovviamente della terraferma, quindi non della città antica, della città storica, si stanno mobilitando proprio per presentare le loro osservazioni su questo. Ma quando si parla di grandi opere a Venezia, in mente spesso e volentieri questi enormi condomini mastodontici che attraversano il canale della Giudecca, cioè le navi da crociera. E anche qui, quando parliamo di grandi opere, abbiamo in riferimento le navi da crociera, ma anche tutto quello che si sta muovendo in questo scenario. È evidente che in questo momento le navi non ci sono, non stanno arrivando, che questa, diciamo così, crisi ha provocato sicuramente degli effetti molto forti anche su questo settore dell'economia turistica. In questo momento a Venezia si sta presentando un doppio progetto, ovviamente dalla parte della VTP, cioè dalla parte il porto che si occupa di da crociera, e cioè da una parte riutilizzare, cambiare, modificare la parte dell'accoglienza, diciamo, della marittima nella città antica per accogliere in maniera, diciamo così, green gli yacht di lusso che potranno così avere degli approdi elettrici dedicati, eccetera, e dall'altra parte invece far arrivare in marittima le navi da crociera più grandi, quelle oltre le 40.000 tonnellate. Sappiamo che c'è un decreto che vieterebbe il loro passaggio in laguna, ma ancora non è così, a parte appunto in questo momento. E per fare tutto questo, evidentemente, bisogna fare degli interventi nel canale dei Petroli e nel canale Vittorio Emanuele. Non sto a dettagliare la cosa, ovviamente, ma insomma si tratta anche qui di grandi opere, di grandi scavi che spesso e volentieri hanno avuto l'opposizione, il parere contrario di persone, diciamo così, esperte e competenti del settore. Ma quando parliamo di grandi opere, parliamo anche di urbanistica, qui ovviamente il nostro faro è sempre il gruppo e le riflessioni di Per un'altra città di Firenze, che noi guardiamo con estrema attenzione. E ovviamente a Venezia in questo momento succedeva prima, ma adesso ovviamente la cosa sta aumentando e si sta facendo forte, ed è quella dei cambi di destinazione d'uso in, diciamo così, chiave ricettiva, e la costruzione di grandi complessi turistici, grandi resort di lusso. Sta succedendo questo, ovviamente, non nella città antica, ma nella parte, diciamo così, del litorale, per cui a Lido di Venezia, dove nel compendio dell'ex ospedale a mare, qui la vicenda è veramente molto complessa e molto lunga. Comunque in questo momento c'è l'idea e il progetto di costruire un grande resort di lusso, e in questi giorni è in discussione la variante urbanistica. È vero che c'è una delibera della giunta che è stata molto propagandata proprio per dare stop, diciamo così, al cambio di destinazione d'uso per le, diciamo così, la trasformazione di edifici in nuovi alberghi, ma ovviamente quando si tratta di pubblica utilità, questa delibera ovviamente viene accantonata. La pubblica utilità ultimamente è semplicemente la dimostrazione che un albergo porta alcuni posti di lavoro. Per cui ecco, la situazione è grandi opere, io la vedrei così a Venezia in questa sua complessità. Quindi, da una parte le grandi opere vere e proprie, come quella dell'aeroporto, che è in procinto di essere appunto ingrandito, ma soprattutto appunto di questa bretella che è in discussione, nei lavori ovviamente del porto per continuare a far arrivare le navi da crociera, e poi anche in tutto questo impatto che abbiamo di continui grandi compendi turistici che, diciamo così, tolgono invece ogni altro servizio e ogni altra funzione agli edifici che si trovano a Venezia. Ecco Roberto, poi magari sono già le 19:45, io mi lascerei anche la vostra scena, a breve, magari ancora se avete altri 10 minuti, un quarto d'ora di tempo, affrontiamo le ultime cose che sono soprattutto relative a da dove si riparte. Un po' quello che diceva Maria sulle delibere, sui regolamenti urbanistici a Venezia, sono presenti anche a Firenze. Fra l'altro, appunto, proprio per un'altra città, scusate, proprio per un'altra città ha pubblicato un articolo pochi giorni fa, 2 giorni fa, a Firenze, per non rinascere male, progetti di riconquista popolare della città, dove alcune proposte ci sono. Roberto, ce le vuoi raccontare velocemente? Sì, scusa, rapidamente. Dunque, come ha riaperto l'attività il Consiglio Comunale e la Commissione Urbanistica, hanno approvato 2 progetti di trasformazione alberghiera di lusso, al solito nell'antico importante convento di San Giorgio e San Giacomo alla Costa, circondato dai monumenti più famosi di Firenze, dal Giardino dei Popoli, eccetera, eccetera. Non è il caso di parlarne qua, ma è veramente scandaloso. E l'altro è l'ex ospedale militare dalla parte opposta della città, dove avevamo individuato un luogo di possibile recupero di abitazioni popolari, edilizie economiche popolari, modello famoso bolognese, in centro storico, in quanto non opponeva resistenza alla trasformazione. Sono stati approvati due interventi del solito tipo, quello dell'extra lusso. Dunque, la buona volontà, il programma del sindaco che dice che si deve coniugare rigenerazione urbana, che sostenibilità alla città futura, e tutto questo viene seccamente subito smentita da queste approvazioni. Ora, noi in un manifesto che è seguito un po' alla mia lettera citata, avevamo detto, ripreso da questo articolo a cui ti riferisci, che dovremmo conservare più spazi possibile per la collettività e utilizzare l'invenzione, la fantasia, l'immaginazione per rilanciare il tessuto, come dice il sindaco, socio-economico. C'è bisogno di una cultura differente, va innervata su una cultura popolare che è potenziale ma non riesce a trovare luoghi di espressione. E allora, sul modello nord europeo, noi abbiamo proposto che l'edificio delle poste nuove di Michelucci in via Pietrapiana, i due grandi edifici postali, uno è rimasto in forma ridotta, non so che destinazione avrà nel centro di Piazza Repubblica, l'altro è quello via Pietrapiana, costruito tra gli anni 50 e 60 sul progetto di Giovanni Michelucci. Beh, questo edificio è vuoto da molti anni, ha un bellissimo salone per il pubblico e è un'architettura espressionista, se vogliamo, è un momento particolare del nostro Michelucci, legato alla chiesa dell'autostrada e l'interno di questo edificio. Beh, questo dovrebbe diventare una casa del popolo, dei cittadini fiorentini, non darlo a uffici, solito mix di uffici, residenze e commercio di media taglia. Scusa. Prego. Questo potrebbe essere un grande segnale veramente di rinascita di una forza popolare, quella a cui il sindaco si vuol riferire parlando di Lapira, poi citando altri esempi del passato. No, qua bisogna inventarseli noi di nuovi, e questa è una cosa. L'altra è di non vendere a Invimit, che è una società immobiliare italiana legata alle ferrovie, non vendere alloggi popolari, sono 14 alloggi in via dei Pepi, dove si è fatto anche noi una battaglia serrata, insomma, per il diritto alla casa e gli abitanti che ci sono, perché l'assessore sosteneva che le case popolari in centro non vanno. Sai quante contraddizioni ci troviamo su questa strada? Veramente, ecco, questi due obiettivi: mantenere l'edilizia popolare, potenziare l'edilizia popolare e trovare un grande luogo di riunione, di attività culturali, ora si dice dal basso, ma insomma, diciamo non formali, non quelle ufficiali, proprio l'opposto dei grandi eventi che fanno tessuto vero, che servono insomma a lanciare economie di tipo differente, insomma tutto quello che non c'è nel piano Nardella. Purtroppo davvero sono molto critico. Io mi ero scritto, fatto un appunto In questi giorni, ieri c'è stata la difesa dell'attività del comune da parte anche di una deputata, un'onorevole De Giorgi, che diceva la difesa dagli immobiliaristi la facciamo politicamente da molto tempo. A me sembra che abbia sbagliato una vocale qua, la difesa degli immobiliaristi. Ecco, va bene, fermiamoci qua. Sì, poi si E ride, ma poi ci se si ne mette pure a poteva essere. piangere. Allora, invece, Maria, a Venezia, che cosa sta succedendo, soprattutto all'interno del movimento, attiviste e attivisti, come si stanno riorganizzando dopo questo periodo di quarantena per fronteggiare queste nuove vecchie difficoltà? Ma devo dire che in realtà non ci siamo mai fermati, purtroppo c'è da dire che neanche dall'altra parte si sono fermati, anzi abbiamo ritrovato gli avversari ancora più combattivi, però diciamo non ci si è mai fermati, per cui ci sono una serie di mobilitazioni in corso, in atto, ovviamente a difesa della residenzialità, anche con delle proposte sugli investimenti, sul patrimonio di alloggi di edilizia pubblica che sono per molti versi in stato di abbandono e con mancata manutenzione. Ci sono poi delle forti, grosse mobilitazioni in atto contro il cambio di destinazione d'uso di alcune aree della città che vengono sempre, diciamo così, non solo acquistate dai privati, ma poi con la scusa appunto di averle acquistate e in nome appunto di questa pubblica utilità, vengono poi trasformate spesso in alberghi di lusso, nonostante il periodo che stiamo vivendo, insomma, non tutto ancora è riaperto, ma diciamo il rilancio del turismo è estremamente forte. C'è una forte battaglia anche sull'utilizzo dello spazio pubblico. C'è da dire che moltissime città, io credo che Venezia sia stata una delle prime ad accogliere con molto fervore da parte della giunta questa proposta che veniva a livello nazionale di utilizzare, di allargare, diciamo così, i plateatici, l'utilizzo dello spazio pubblico da parte degli esercenti per appunto rinascere, no? E riscattarsi da questo periodo di chiusura. Per cui in questo momento i plateatici, le terrazze dei bar e gelaterie, eccetera, sono veramente molto ampie, molto, molto grandi e stanno, diciamo, erodendo lo spazio pubblico, lo spazio, diciamo così, comune, collettivo. E su questo molto si sta facendo, si sta analizzando, nel senso che non è possibile appunto ridurre la città, diciamo così, a luogo del consumo a pagamento, no? Mi siedo e pago, ma come sia necessario che, se è vero che ristoranti e bar sono stati chiusi, hanno necessità, diciamo, per il distanziamento di sicurezza, per motivi di salute in questo momento, poter ampliare il loro spazio. È anche vero, questo equivale anche alle esigenze della popolazione, equivale per gli spazi ricreativi, equivale per le associazioni culturali, per le librerie. Insomma, se davvero lo spazio bisogna occuparlo, che sia occupato davvero da tutti e che sia vissuto dalla popolazione. Su questo ci sono analisi, ma anche appunto prese di posizione molto, molto forti. Stanno avvenendo appunto flash mob, iniziative collettive anche di riappropriazione dello spazio, proprio in questa chiave di riprendersi la città. Per cui ecco, da questo punto di vista credo che non ci si sia mai fermati, nonostante poi siamo stati costretti a vederci, a incontrarci a distanza, via computer, con le connessioni, per cui questo ci ha reso anche un po', tra virgolette, prigionieri delle nostre abitazioni, ma anche qui con una riflessione, anche qui forte, su che cosa sta diventando la casa nei momenti appunto di epidemia, di contenimento e quindi di cosa vuol dire avere, no, un alloggio dignitoso per chi poi è costretto in questo alloggio a viverci, a lavorarci, eccetera. E quindi anche questo, diciamo, ci sta riportando a fare non soltanto analisi, ma iniziative. Iniziative pubbliche, iniziative all'aperto, a difesa dello spazio, a difesa un po' della città, ma anche nell'ottica di una città diversa. Noi in questo momento stiamo vivendo diciamo la fase preelettorale, nel senso che a maggio ci sarebbero dovute essere le elezioni amministrative per il rinnovo della giunta, cosa che invece è stata posticipata, quindi probabilmente le elezioni avverranno a metà settembre, sia quelle del comune sia quelle della regione, per cui come possiamo immaginare, no, in questo momento molto si muove, ma molto, diciamo, può essere anche facilmente strumentalizzato, strumentalizzabile, perché siamo in pieno periodo di campagna elettorale, per cui molti grandi proclami, l'attenzione quindi è sempre un po' anche a renderci conto e a ricordarci qual è la situazione in cui ci stiamo muovendo, da cosa deriva, quali sono gli errori fatti, proprio per non farci poi irretire da facili proclami, come appunto state indicando anche voi lì, Firenze. Bene, allora grazie a Maria. Roberto, non so se avete qualcosa da aggiungere, poi vi lascerei, sono già alle 8. Ma speriamo di vederci presto e quanto prima. Speriamo. Speriamo. E speriamo anche con te, Maria. E niente, benissimo, grazie e a presto. Grazie ancora a Maria Fiano e Roberto Budine Gattai, hanno dato la pazienza e i minuti a tutti a noi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Ancora grazie e un saluto. A presto. Ciao, ciao, presto. Ancora grazie. E tutto il mondo è paese, e io magari nel frattempo mando un pezzaccio per smorzare un po' la pesantezza, che spero sia stata comunque interessante, ma i temi sono abbastanza complessi, insomma, abbiamo anche parlato così tante volte che forse non tutti e tutte avranno voglia di risentirle, ma questi sono i temi a me, a noi cari, e quindi non fa mai male un confronto con città come può essere Venezia, che attraversa un momento molto molto molto simile. Massimo volume con La città morta. Roberto.

E torniamo sulle libere frequenze di Radio Wombat. Bricovaldo, oggi è mercoledì 10 giugno, sono le 20:07. Per chi si fosse messo in ascolto adesso, state ascoltando Radio Wombat. Non è finita qua, ancora abbiamo all'incirca un'oretta da stare insieme. Ancora ho un altro contributo che arriva da Torino, che vi farò sentire tra un poco. Ma intanto dilettiamoci nel leggere qualcosina. Intanto abbiamo parlato con Budini Gattai, con Maria Fiano, e gli articoli che abbiamo citato sono quello di Antonio Fiorentino, comparso l'8 giugno 2010 su Per un'altra città, Firenze per non rinascere male, progetto di riconquista popolare della città. E ci tengo anche a citare la risposta che, come anticipavo prima, l'associazione Progetto Firenze, diretta da Grazia Galli e Massimo Lenzi, risponde a Sindaco Nardella, che si arrabbia perché, per il servizio di report, perché manca il contraddittorio. Una critica giusta, dia quindi l'esempio e apra un vero confronto con noi residenti. L'associazione Progetto Firenze dice: va bene, puoi anche aver ragione a volere il contraddittorio, ma fai lo stesso, visto che tanti sono gli appelli che ti sono arrivati, ma non spesso poi andati e disattesi. Non per ultimo quello che è successo lunedì si è riunito il primo consiglio comunale dal vivo da circa 3 mesi, erano sempre stati in remoto, da ognuno a casa propria. C'è stato il primo consiglio e non è mancato anche il primo presidio proprio sotto il Palazzo Vecchio, primo presidio che è stato promosso dalle realtà che hanno messo in atto il sostegno alimentare in tutta Firenze. Era presente il sostegno alimentare del centro, con appunto Via del Leone, il laboratorio di Laddarno, la polveriera Spazio Comune, era presente Potere al Popolo, era presente la parte invece delle minime fatta da principalmente il fondo comunista attraverso l'associazione Ciro e Angela, se non mi ricordo male, e era presente anche la rappresentanza, diciamo un gruppo abbastanza nutrito della comunità Rom, Sinti e Camminanti. A parte la bagarre che si è tenuta in piazza, una delegazione è salita in Palazzo Vecchio proprio durante il consiglio comunale, proprio durante nel momento in cui il nostro prode sindaco compagno Dario presentava il suo programma Rinasce Firenze. Si è salita su e ha avuto un colloquio con l'assessore Vannucci. Perché? Perché comunque il consiglio comunale ha votato e approvato circa 3 settimane fa, ha votato e approvato una mozione per il reperimento di ben 6 milioni di euro da destinare al sostegno delle famiglie in difficoltà. E l'assessore Vannucci naturalmente ha detto: no, il voto del Consiglio Comunale non vale un fico secco. Ha avuto il coraggio di dirlo di fronte sia alle persone che in questi mesi si sono adoperate giorno e notte, mi viene da dire, per un sostegno alle famiglie in difficoltà, sia di fronte a rappresentanti del Consiglio Comunale, Dimitri Palaci e Antonella Bundu. Quindi questo un po' a sottolineare che evidentemente quello stato di democrazia sospesa di cui abbiamo tanto parlato nell'arco di questi 3 mesi non si è ancora concluso. grande solidarietà a tutte le persone che in questi mesi hanno svolto un'attività fondamentale per la città, per il tessuto urbano, soprattutto quello più fragile, e che stanno contribuendo a creare una rete solidale. Rete solidale che, come ci diceva Cosimo dell'occupazione di Via del Leone, qualche, almeno non mi ricordo se erano 2 o 3 settimane fa, proprio ai microfoni di Radio Wombat qui con Briccobaldo, ci raccontava appunto della costruzione di questa rete. E ora magari vado a cercare, se mi date un secondo, è stato aperto un blog che ci può aiutare. Eccolo qua, si chiama Esercizi Solidali Fiorentini. Si tratta di un blog su Noblogs, esercizi solidali fiorentini.noblogs.org, e fondamentalmente ci trovate tutti quegli esercizi solidali che sono stati solidali nell'arco di queste settimane. Chi siamo? Siamo le persone del sostegno alimentare che sono nati in diversi quartieri di Firenze da quando è scoppiata l'emergenza Covid-19 e la crisi economica e sociale che l'ha accompagnata. Ci siamo attivati per sostenere alcune delle persone che hanno sentito più fortemente gli effetti negativi della crisi economica. Ci hanno contattato lavoratrici e lavoratori della ristorazione e dei servizi per il turismo, colf e badanti, persone anziane, isolate, famiglie numerose. Questa emergenza sanitaria ha mostrato la fragilità di un sistema economico che, come quello fiorentino, si basa unicamente sull'industria del turismo, che necessita di grandi masse di lavoro nero e grigio, di lavoratrici e lavoratori sfruttati e sfruttate, invisibilizzati e invisibilizzate e senza garanzie. Tutto questo serve per mantenere la facciata della Firenze bene, perché le e i turisti trovino una città accogliente per i loro bisogni, ristoranti tipici, appartamenti pazzeschi su Airbnb e alberghi di lusso, arte e cultura, piazze e strade pulite. La maggior parte di questo lusso però non è abbordabile da buona parte delle persone che vivono a Firenze. Non è fatto per noi, insomma, per chi vive in questa città. L'industria del turismo non è in genere niente di più che una possibilità di trovare un lavoro sfruttato e senza garanzie. Per questo motivo, appena è scoppiata la crisi, abbiamo sentito la necessità di non rimanere isolati e isolate, nonostante il lockdown, di rinforzare un tessuto sociale che da anni è messo a dura prova dal sistema politico-economico che governa la città. Ci siamo organizzati e organizzate nei nostri quartieri di riferimento, persone e commercianti della zona, per ritrovare una dimensione più intima negli spazi della città. La crisi può diventare così anche l'occasione per incontrarsi, di tessere relazioni e di organizzarsi per creare dei quartieri e una città che soddisfino prima i nostri bisogni di quelli dell'industria del turismo. Il sostegno che diamo a chi ce lo chiede consiste nella distribuzione di beni alimentari, e questo è possibile grazie alle donazioni in denaro e in cibo da parte di persone singole, ma anche da parte commercianti e commerciante che ci regalano regolarmente verdure e frutta fresca, carne fresca, pane, prodotti di gastronomia, prodotti secchi da mini market e supermercato. Abbiamo quindi deciso di rendere visibile la partecipazione di questi negozi, botteghe e mercati, fornendo loro questo attestato di esercizio solidale fiorentino con un logo tipo questo, e si vede al lato appunto il logo degli esercizi solidali. In questo blog troverete la lista degli esercizi solidali e potrete vedere via via le e i commercianti che ricevono l'attestato. Quindi io naturalmente non ve lo leggerò l'elenco dei commercianti e delle commercianti, ma ve lo potete andare a vedere, ripeto, esercizi solidali fiorentini.noblogs.org. Iniziativa veramente lodevole. Direi che questo è una è veramente quello che viene tanto citato dalle amministrazioni, viene poi fatto dalle persone con i mezzi che ci sono, e quindi questo si riduce poi, non si riduce affatto, diventano relazioni che poi sono spendibili in molteplici occasioni, quindi poi sono la cosa più preziosa che ci sia. Quindi, ancora, esercizi solidali fiorentini.noblogs.org. Non finisce qui perché si riprende uno dei temi toccati durante la lunga intervista a Maria Fiano e Budini Gattai, gli spazi pubblici e la riappropriazione di una città. Intanto bisognerebbe anche appunto riappropriarci delle parole ancora prima che degli spazi, visto che quello che abbiamo citato prima, e cioè rinasce Firenze con questo grande hashtag, che è stato fra l'altro insomma anche attacchinato con grande rumore per le strade di Firenze, appunto si va a utilizzare dei termini, no? Rinasce Firenze, ripensiamo la città, cose che in verità sono un po' false, e quindi andiamo ad altri lidi, ma sempre sullo stesso tema. La Polveriera Spazio Comune, già in data di ieri, che era martedì 9, ha pubblicato un post, oggi ne ha pubblicato un altro, fondamentalmente per dire che c'era una volta il chiostro della Badessa. Questo è il post di oggi, che sta cercando e raccogliendo sottoscrizioni. C'era una volta il chiostro della Badessa in via di Santa Reparata. È stato aperto per anni e ha accolto un sacco di persone e di cose: bambini, studenti, mostre d'arte, mercati contadini, cineforum, cani al guinzaglio, spettacoli di teatro, sole, musica, piedi scalzi. Quel chiostro c'è ancora, ma l'accesso è ora impedito da un grigissimo cancello. Il cancello lo ha messo la Regione Toscana, in barba a tutti i suoi cittadini, quando la gestione del posto le è stata passata dal demanio. Dapprima ha detto: è solo per evitare che si calpesti il prato che abbiamo appena posato con un nuovo manto. Poi però il cancello è diventato un cancellone blindato e ci è rimasto, mentre la regione ha usato autonomamente quel chiostro per affittarlo per eventi privati, il cui introiti, fra l'altro, che fine hanno fatto? Ma questo è già un altro discorso. E dire che la regione, nella persona di Monica Barni, assessora alla cultura, ci aveva detto, in un incontro avuto con la Polveriera: ma no, figuratevi se vogliamo privatizzarlo, è l'unico spazio verde all'interno del triangolo studentesco, SIC, del centro, uno dei pochissimi posti verdi del quartiere 1. Noi lo vogliamo anzi valorizzare a tutto vantaggio degli studenti. Sicuramente non si può dire che ci sia riuscita, eppure è strano. È proprio strano, visto che la regione stessa ha promesso e finanziato ben due processi partecipativi, uno sul nome sul rione San Lorenzo e l'altro specifico su Santa Pollonia. E indovinate che cosa hanno affermato a gran voce entrambi questi percorsi svolti da associazioni, cittadini, architetti, rappresentanze studentesche, eccetera? Hanno detto che quel chiostro è uno spazio pubblico, utile innanzitutto ai cittadini, e hanno dato indicazione per una sua pronta riapertura. Dopo questo, la regione è stata da noi e da molti altri sollecitata più volte a provvedere, ma no, nulla, niente, nada, nisba, ha scelto il silenzio e nulla di fatto. Ora, in questo periodo di post-confinamento, in questi strani giorni in cui c'è più che mai bisogno di tornare a rincontrarsi, e di poterlo fare all'aperto, in sicurezza, abbiamo nuovamente chiesto alla regione di dare esito alle conclusioni dei due processi partecipati che ha finanziato e alla voce di molti cittadini e cittadine che pretendono spazi verdi in centro, a cominciare da questo pubblico. Ci vuole pochissimo, basta girare una chiave. Sottoscrivi l'appello per la riapertura del chiostro al sito della Polveriera, che è lapolveriera.noblogs.org. Si può inviare una mail con nome e cognome all'indirizzo lapolveriera.spaziocomune@inventati.org con oggetto sottoscrizione apertura chiostro, altrimenti anche commentare il post su Facebook, che naturalmente trovate alla pagina della Polveriera Spazio Comune. Quindi ancora grande sostegno ai compagni e alle compagne della Polveriera, che da anni si sono battuti, da anni si battono per la riapertura del chiostro, e per anni si sono battuti per la apertura, per la non chiusura di questo bellissimo spazio, che di fatto, come si specifica in questo comunicato, è stato chiuso per poi essere affittato agli eventi privati della regione. Ma tutto questo oggi, più di ieri, ci sembra assurdo, visto che gli spazi al chiuso sono stati dichiarati pericolosi, e quindi la necessità di stare all'aperto è oggi forte più che mai. Molte, fra l'altro, le sottoscrizioni arrivate si possono vedere già dal post Facebook, se ne trovano veramente tantissime, svettano fra l'altro anche alcuni nomi molto conosciuti nell'ambito della Polveriera e del Festival del Letteratura Sociale. Mi sembra di aver intravisto poco fa l'adesione di niente poco di meno che Alberto Prunetti. Alberto Prunetti è un compagno che spesso è stato ospitato all'interno degli spazi della Polveriera, perché spesso è venuto a presentare i suoi libri, che tra l'altro io alcuni ne ho letti, in particolare Amianto, ma che bello, ragazzi. Sveglia Barney? Because there's no the one except God who owns this we'll be right back. tornando a noi, si parla ancora di Firenze, si parla ancora della città, si parla ancora di quello che sarà. Scusate. Perché? Perché, riallacciandoci un po' ai discorsi che abbiamo fatto con Roberto Budini-Gattai, in particolare con Maria Fiano, Firenze ha bisogno di nuove prospettive e là arriva il bazooka urbanistico del compagno Prode Dario. Dunque, ha capito un po' che il turismo sì, potrà andare, probabilmente in altri versi, però c'è anche bisogno di un po' un cambio di prospettiva. E cos'è che ha detto fin praticamente dal primo giorno di quarantena? Che Firenze diventerà una città ipertecnologica molto intelligente. Mi piacerebbe fra l'altro un po' approfondirla, questa intelligenza che viene tanto millantata, perché si parla di high-tech, si parla di tecnologia e di smart city. Ora, noi sappiamo benissimo, oramai, che l'high-tech, quindi la tecnologia, non è intelligente di per sé e non è neanche neutra. Questo ce lo insegnano i numerosi A-Club, i numerosi smanettoni e smanettone sparsi un po' in giro per tutto il mondo, ma ce lo insegna anche la tecnologia stessa nell'uso che ne facciamo anche quotidianamente, visto che oramai è così diffusa nelle tasche di tutti e tutte. Quindi, questa intelligenza probabilmente deriverà dall'intelligenza di qualche persona che sta dietro e che magari l'ha costruita, progettata. E quindi di conseguenza possiamo, come dicevo, affermare che la tecnologia non è mai neutra, bensì rispecchia le intenzioni di chi l'ha progettata. Quindi, quando si parla di smart city, di che cosa parliamo? Quando parliamo di una città intelligente, di che cosa parliamo? Quando riparliamo di una... parliamo di una città tecnologica, di che cosa parliamo? Questo è un po' il grande interrogativo che ci dobbiamo porre. Io sono un po' scettico, se devo essere sincero. Come sapete, insomma, io ancora vado col Nokia 3310, che purtroppo mi sta un po' abbandonando, dovrò sostituirlo, però... vabbè, lasciamo perdere la mia posizione. Abbiamo altri esempi, perché la Smart City è un modello che magari può essere parzialmente nuovo a Firenze, ma vedremo anche che non lo è proprio così nuovo. È comunque una prospettiva abbracciata da diverse città, fra le quali una in cima alla lista, quantomeno in Italia, ci sta Torino. Torino, anche con la sua colorata giunta, ha intrapreso questa strada e quindi noi abbiamo pensato bene di farci spiegare quello che è successo e che sta succedendo nella città della Fiat da un compagno torinese, un compagno fra l'altro che fa parte sì del movimento di Torino, ma soprattutto uno dei redattori di Stacca Stacca, che è la trasmissione che va in onda su Radio Blackout e che è afferente alla Club torinese. Quindi non ci resta che ascoltarci il buon G ancora qualche decina di secondi di sottofondo con Better Change Your Mind e partiamo con G. Che io ancora non ho ascoltato, quindi lo ascolteremo veramente insieme e poi magari facciamoci anche una piccola riflessione insieme. Anche le foche bevono Radio Wombat. Partiamo prima per, diciamo, definire il termine Smart City come è inteso nell'ambito della città di Torino. Allora, partendo dalla pagina Wikipedia, ti dice semplicemente che Smart City è un'area urbana che usa differenti tipi di tecnologia, tra cui l'Internet of Things, e sensori vari per collezionare dati per poter fare statistiche per gestire al meglio gli asset e le risorse disponibili. Quindi, in pratica, collezionare più dati possibili, non necessariamente personali, per poter offrire dei servizi tendenzialmente pubblici più efficienti. Ora, nel contesto della città di Torino, c'è una società in particolare che si occupa di fare questa cosa, che si chiama 5T. 5T è una società SRL del comune di Torino e della regione Piemonte, forse anche una piccola partecipazione della provincia. E 5T sta perché nella loro sigla loro si chiamano Tecnologie Telematiche Trasporti Traffico Torino. Sono una delle società più vecchie che si occupa di queste cose, mi sembra che siano stati fondati nel 92, e si occupano di gestire tutto quello che ricopre, diciamo, la definizione più prettamente tecnica del concetto di smart city. Che cosa fanno? Si occupano della gestione del traffico, quindi semafori, sensori, autovelox, pannelli informativi, parcheggi e cose del genere, e incrociano queste informazioni per offrire un sistema di migliori, in teoria, mezzi pubblici e migliore informazione. Allora, partiamo dal principio. Ovviamente, per poter offrire questi servizi è necessario avere dell'infrastruttura. Che tipo di infrastruttura serve? 5T negli anni si è occupata lentamente di lavorare su più fronti. Dal mio punto di vista, secondo me, su alcune cose hanno fatto bene, nel senso che quando la società ha bisogno di un tipo di tecnologia, fanno un bando, però nel bando hanno dei requisiti che privilegiano poi la loro autonomia. Cosa vuol dire? Che di solito quando preparano un bando per una fornitura di un qualche tipo di apparecchiatura, ad esempio un cartellone luminoso come quelli che si vedono per strada, quelli con i leddini arancioni, che ci sono anche in autostrada, mettono delle condizioni per le quali questi pannelli si devono poter integrare decentemente con i loro sistemi già esistenti e allo stesso tempo devono essere formati sulla gestione e la manutenzione di questi oggetti, in modo da non poter essere direttamente dipendenti dall'azienda. Certo che poi ci sono delle parti di ricambio che sono strettamente particolari e non si ha molta scelta. Però questo ha fatto sì che loro nel tempo accumulassero una discreta quantità di conoscenza interna in modo da integrare tutti questi sistemi. Quindi, che cosa hanno fatto? Hanno iniziato lentamente a sostituire tutti gli incroci principali, adesso stanno facendo anche quelli minori perché ormai questi lavori vanno avanti da più di 10 anni, con dei semafori controllabili sostanzialmente in remoto, potremmo dire via internet, poi si collegheranno in VPN alla loro rete. Allo stesso tempo hanno disseminato la strada di sensori di passaggio macchine. Questi sensori li potete riconoscere perché ci sono dei quadrati di asfalto tagliato in cui semplicemente c'è una spira di rame. Quando la macchina passa si muove un magnetino in mezzo alla spira, sulla spira passa una corrente e la corrente segnala il passaggio di una macchina. Allo stesso tempo hanno aggiornato tutta la flotta dei mezzi pubblici in modo da poterli tracciare. Hanno sostanzialmente dotato di una specie di tablet, chiamiamolo così, che ha dentro una SIM classica, con cui avranno dei contratti particolari, che si occupa di inviare in tempo reale la posizione del pullman alla loro centrale. Dopodiché hanno, questo è l'esempio, diciamo, del loro vanto principale, la cosa più pratica, hanno incrociato i dati del passaggio delle automobili con i dati degli autobus per, in teoria, favorire lo scorrere del traffico. Quindi, sincronizzando i semafori in un certo modo, avendo tutte le informazioni necessarie, è possibile far sì che il traffico si, diciamo, non crei colli di bottiglia, ovviamente nel possibile umano, perché in parte è, diciamo, fare gestire questi algoritmi informaticamente è un problema estremamente complesso, quindi non è scontato che esista una soluzione ottimale univoca. E allo stesso tempo c'è un problema del traffico, che ci sono troppe macchine, da questo ovviamente non si può scappare. Comunque l'idea è che unendo tutte queste cose, oltre a non creare code, si dovrebbe poter favorire il trasporto pubblico, ovvero quando si sa che sta arrivando un mezzo pubblico, ad esempio, si può far durare il verde qualche secondo in più per far sì che il pullman non prenda quel semaforo. Ovviamente non è che ogni volta che arriva un pullman il semaforo scatta, perché non sarebbe sostenibile. Questo è il motivo per cui ovviamente bilanciare tutte queste cose con eventualmente anche i mezzi di emergenza non è scontatissimo. Comunque è un lavoro che si sottovaluta, nel senso che io poi non so quale sia l'efficacia in senso finale, cioè quanto questa cosa riduca il traffico e ottimizzi i mezzi pubblici in senso pratico, però è una cosa che nella vita di tutti i giorni non si vede, però c'è e c'è tanta progettazione dietro. Questo fa sì che poi loro, con tutte queste informazioni, possano organizzare delle altre cose. Ad esempio, gestiscono tutti i pannelli informativi in Torino e in provincia, quindi tutti i cartelli luminosi che danno informazioni sui lavori in corso, sugli ingorghi e queste cose qua. Allo stesso tempo, ovviamente la maggior parte dei lavori che poi sono effettivamente di muratura, tipo installare i sensori per terra, li fanno a Torino. Non è pensabile riempire tutte le statali di sensori, ne hanno qualcuno. Se ci fate caso, sono sensori che ci sono anche ovviamente in altre regioni d'Italia. Sono degli archi sopra la strada che hanno delle fotocellule che di solito le persone pensano che siano autovelox. In realtà non sono autovelox, sono semplicemente un infrarosso che conta le automobili. E aggregano anche questi dati con dei dati che gli forniscono gli operatori telefonici anonimizzati per avere sempre più o meno un'idea del traffico in tempo reale. Oltre a questo, gestiscono delle cose che sono più ovvie, che siano informatiche, tipo la ZTL a Torino è tutta elettronica, per cui hanno ai varchi hanno delle videocamere che riconoscono le targhe, sanno quali sono le targhe autorizzate, sanno quali. Ovviamente quelli che non sono autorizzati sono tutti gli altri, sanno gli orari della ZTL, ci sono dei pannelli luminosi che dicono automaticamente se la ZTL è attiva o non attiva in modo che le persone non debbano leggere, stare a guardare gli orari, e tutta questa roba funziona automaticamente ed è gestita sempre da 5T, che è appunto questa società pubblica. In tutto questo si occupano anche dell'infomobilità, quindi hanno il sito per calcolare i percorsi, si occupano loro di calcolare i percorsi con i mezzi pubblici, allo stesso tempo nelle fermate dei pullman hanno installato in un discreto numero i display che avvertono i passaggi, oppure si può controllare su internet, hanno anche un bot Telegram per sapere i passaggi. Queste sono sempre tutte cose che fanno parte dell'infomobilità e che rientrano nel concetto più pratico di smart city, ovvero aggregare i dati urbani per fornire un servizio pratico informativo. In tutto questo, ci si può immaginare che loro abbiano una grossa sala di controllo dove sullo schermo vedono i dati del traffico in tempo reale, fanno i bollettini, cercano ovviamente di fornire sempre servizi nuovi, comunque si occupano anche di gestire ad esempio le barriere fisiche remotamente, ad esempio i paletti che si alzano e si abbassano per le aree pedonali, oppure si occupano di fornire sui siti web o nei pannelli le informazioni dei parcheggi e queste cose qua. E ora, su quanto questa roba sia utile a livello finale, io non mi so esprimere perché sinceramente non so dare un numero di come i dati siano cambiati. C'è da dire che comunque c'è stato un discreto sforzo a sviluppare dei protocolli, ad esempio hanno fatto il protocollo BIPEX, che è un loro tentativo, visto che si occupano anche di bigliettistica, di far sì che i biglietti del trasporto locale col trasporto regionale più i treni locali che girano sulla rete Trenitalia siano intercambiabili. Hanno fatto una carta su cui si possono caricare più tipi di biglietti e cose così. Allo stesso tempo hanno fatto un protocollo che si chiama Simone, di cui non so i dettagli, comunque sono relativamente aperti, nel senso che li hanno definiti loro. Però ci sono i PDF, dicono che su licenza Creative Commons, comunque c'è un tentativo di fare questa cosa in un certo modo, a mio dire, che ad esempio come i vari vincitori delle bande di gara dovrebbero poi gestire il loro software per interfacciarsi con loro, perché ovviamente un'azienda fornisce pannelli luminosi, un'altra fornisce semafori, un'altra fornisce qualcos'altro, e non è neanche detto che lo stesso tipo di oggetto arrivi tutto dalla stessa azienda, quindi far dialogare tutte queste cose e poi poter utilizzare sia questi dati che controllare ad esempio remotamente il semaforo richiede un sacco di lavoro di system integration che non è per niente scontato. E niente, questo era un pochino una panoramica sulla parte di 5T di del lavoro di infomobilità nell'ambito smart city. Poi è chiaro che le cose smart sono cose mediamente piene di fuffa, cioè abbiamo i frigoriferi smart, vuol dire mettere un processore dentro il frigorifero e collegarlo a internet. Smart non vuol dire necessariamente intelligente. In questo contesto, secondo me, ha un'accezione un po' meno un po' meno fuffa del frigorifero. Certo che probabilmente si può anche sapere, esisteranno dei dati che danno un'impressione di se tutto questo lavoro abbia effettivamente migliorato il traffico. Sicuramente la parte informativa penso che abbia una sua utilità. Bene, l'abbiamo capito dunque, Smart City vuol dire fondamentalmente una città piena di sensori, in un certo senso, sensibile e diciamo per far sì che possa essere ottimizzata sotto tanti punti di vista. E questo, come anche sottolineava Gino, può essere che apprezzabile se utilizzato nel modo giusto. Certo è che a volte a me viene da pensare che per questo forse la prima cosa sarebbe ridurre la quantità di auto ancora prima che riuscire a scaglionarle bene nelle strade, questo quindi. Però vabbè, questi sono proprio solo pensieri miei. Di fatto Smart City, per come viene intesa un po' a Firenze, viene anche messa sul piano di una rivoluzione high-tech di una città che vive la crisi del turismo. E quindi come facciamo ad attrarre nuove persone e nuovi investitori in città? Lo facciamo creando delle sorta, rendendola una sorta di hub tecnologico. E di questo, come anticipavo, Nardellone e la giunta lo urlano a gran voce già da diverso tempo. Ma può cambiare le cose questo a Firenze? Questa è la vera domanda. A me sembra un po' l'intenzione di renderla ancora più radical chic, una città attraversata sempre più da giovani imprenditori e imprenditrici con la 24 ore. Di fatto non ci si limita alla non ci si limita alle parole, perché anche ancora citando il Rinasce Firenze, il piano presentato un paio di settimane fa dall'amministrazione, si cerca di detassare fortemente, anzi detassare del tutto, le aziende che verranno ad investire a Firenze nell'ambito tecnologico. Ma bene, dai, direi che l'ora dei pipponi è finita, direi che sono finite praticamente le due ore dell'ormai consueta diretta di mercoledì con Briccobaldo. Non mi resta che darvi ancora una notizia. Una notizia, rimandarvi a un evento che potete trovare sulla piattaforma lapunta.org, che purtroppo al momento è un po' vuota perché gli eventi ce ne sono stati ben pochi, ma ne è comparso uno che è promosso proprio da Radio Wombat e si tratta del picnic per Radio Cora. Picnic per Radio Cora, che avverrà sabato 13 giugno alle ore 11. L'appuntamento è presso il Next Emerson, in via di Bellagio 15, in zona Castello, a Firenze Nord. E si tratta fondamentalmente di una passeggiata nei boschi di Cercina fino al cippo caduti di Radio Cora. Partenza ore 11 presso il CSA Next Emerson, all'arrivo picnic, letture, diretta radio a cura di Radio Wombat. Per i dettagli potrete andare sul sito csanextemerson.it o su wombat.noblogs.org. Si fa questo perché il 12 di giugno, e cioè venerdì, è l'anniversario dell'eccidio di Radio Cora. Radio Cora era una radio nata in territorio fiorentino nel 1944. Ora magari vi cerco anche un po' di dettagli. Era una... naturalmente Cora è un acronimo, sta per Commissione Radio, e era un'emittente clandestina che fu creata dal Partito di Azione. Fu attiva dal gennaio al giugno 1944, in verità poi dopo l'eccidio è stata rimessa su e è andata avanti fino ad agosto del 1944, e fondamentalmente era un servizio di informazioni che teneva i contratti tra la Resistenza Toscana e i comandi alleati, soprattutto quello di Monopoli in Puglia, perché c'era la necessità di far trapelare le informazioni sia sui movimenti dei vari eserciti presenti di occupazione presenti sul territorio italiano durante la liberazione dell'Italia, sia per indicare con esattezza la posizione nel quale poi recapitare sia vestiario che cibarie, ma anche armi e uomini per poi quello che è stato lo sfondamento della linea gotica. Era una parte civile, diciamo, del Partito d'Azione che con grandi rischi svolgeva questo lavoro, in particolare spostando le varie attrezzature in tantissimi nascondigli. Sono stati individuati dai nazisti, era il 7 giugno 1944, sono stati individuati proprio in Piazza d'Azeglio, dove si trova fra l'altro una lapide a ricordo dei del gruppo, che erano fondamentalmente Carlo Ludovico Ragghianti, Enrico Bocci, Pippo Codignola, Enzo Enriquez Agnoletti, ma anche altri, e appunto Luigi Morandi, Carlo Campolmi, Italo Piccagli e altri, che sono stati catturati il 7 di giugno del 1944, sono stati portati e torturati per giorni in Villa Triste, e poi alcuni di loro sono stati addirittura trasportati nei boschi di Cercina e fucilati sul posto, altri invece sono stati deportati, o almeno hanno provato a deportarli verso Mauthausen, ma alcuni sono anche riusciti a evadere, a scappare. Quindi si tratta di una annuale commemorazione. Quest'anno abbiamo deciso di essere presenti sul posto e di farla un po' a modo nostro. Cercheremo infatti, oltre al picnic, di portare un po' alla memoria quanto accaduto, e anche cercare di fare un parallelismo tra quella che era l'informazione resistente di allora e quella che è l'informazione libera di oggi. Non ci prendiamo, non pretendiamo certo di essere portatori dell'informazione libera in toto, però diciamo intanto ci proviamo. E quindi ancora, ripeto, potete trovare l'evento su lapunta.org, ma picnic per Radio Cora sabato 13 giugno alle 11, appuntamento al Next Emerson in via di Bellagio 15, portatevi delle scarpe che siano decenti, non si tratta di un'escursione alpina, si tratta di una passeggiata, all'insù è tutta in salita, naturalmente bisogna risalire tutta la pendice del Monte Morello, passando fra l'altro da dei luoghi molto, molto belli, perché si partirà partendo da via di Bellagio, sarà fatta la cosiddetta spacca stinchi, che è quella salitona sterrata, o almeno lastricata, che arriva fino al convento della Castellina, per poi salire su per le tombe etrusche e poi aggirare il versante sestese che sta fra Sesto e Rifredi di Monte Morello, per arrivare in prossimità della chiesa di Cercina. Si saranno 7 km al massimo, però tutti in salita, speriamo nel bel tempo. Ripeto, appuntamento 13 giugno alle ore 11 al CSA Next Emerson, via di Bellagio 15. Beh, detto questo, io sono veramente in chiusura, sono le 20:58 e mi rimane spazio per una canzone che di Rat-Tat, Load Pipes, che sentirete tra poco. Ne approfitto per... Ne approfitto ancora di questi due minuti di sottofondo per darvi di nuovo i contatti della radio. La mail postawombat@insiberia.net. Quando siamo in diretta potete interagire attraverso il pad pad.resap.net/p/direttawombat-keep e inoltre abbiamo una pagina Facebook poco curata e potete anche seguire naturalmente il blog che è wombat.noblogs.org, ancora per poco, perché è in arrivo, lo dico qua, è un po' un'anteprima, è in arrivo un nuovo sito bellissimo e soprattutto ben più fruibile e comprensibile, con veramente tante tante novità. Il palinsesto anche lo abbiamo aggiornato, non ancora pubblicato, ma lo sarà fatto a breve, vedrà... Avrete modo di vedere anche da un punto di vista proprio visuale un palinsesto molto molto pieno, le trasmissioni sono tante, la quarantena ci ha fatto decisamente bene. È stata inoltre, come accennavo a inizio puntata, risistemata l'antenna. Se siete fortunati e abitate nella zona Firenze Nord, potete ascoltarci sulle frequenze medie sulla 1359. I nostri mezzi, sapete, sono sempre traballanti, ma attualmente è su e quindi questo è quello a cui puntiamo, e cioè andare sempre in broadcasting, nell'etere cosiddetto. E così come vanno nell'etere alcune delle radio a noi molto vicine, si tratta di Radio Spore, di Radiogramma, che anche loro stanno utilizzando la frequenza 1359 delle onde mediocri, ma abbiamo visto anche nascere nuovi progetti, Radio Forte, anche Radio Neanderthal da Napoli. Speriamo di riuscire a ritornare a essere una rete, a mandare, così come è stato fatto durante la quarantena, il fantastico radiogiornale che ogni giorno avete sentito alle 13, che purtroppo non sta più andando in onda. Bene, Bricobaldo vi saluta, vi lascia a Love Pipes e ci sentiamo sicuramente questo sabato da Radio Cora Wombat.